Summertime di Elisabetta Fiorito. Chi? Ma chi? Chi mai lo farà parlare? Che cosa? Il mio cuore. Io? Lei? Oh già. E potrà dedicarsi solamente a me. Ma lei è libero? Beh, è libero. In certo qual senso sì. Cosa vuole? Tutti siamo schiavi del bisogno. C'è del marcio in Danimarca. Ma. Questa è la famosa frase buon pomeriggio di Amleto pronunciata da Totò nella versione di Totò. È vero, c'è del marcio in Danimarca. Beh, sono in Danimarca in questi giorni, non si direbbe, ma non vogliamo fare politica. Questa è Summertime, è la trasmissione di spettacoli e cultura. E allora noi andiamo a Milano nel Teatro di Verdura, dove oggi va in scena il principe, che non è quello di Machiavelli ma è quello di Shakespeare. Il principe per eccellenza è ovviamente il principe di Danimarca, lui Amleto, ed è una rielaborazione dei testi del grande William, ma anche dei testi di Tom Stoppard. Ricordate Rosencrantz e Guildenstern sono morti, la famosa pièce dei personaggi secondari dell'Amleto, molto molto divertente. Allora, che cosa succede questa sera al Teatro di Verdura a Milano? Ricordiamo, un teatro all'aperto. Cristiano Pasca, qual è il rapporto tra Shakespeare e Stoppard? Allora, il rapporto tra Shakespeare e Stoppard, mamma mia, la prima domanda è tremenda. Ecco. È l'esame, come faceva gli esami Agostino Lombardo all'Università a Roma. Attenzione su Shakespeare. Sì, tra l'altro la traduzione di Lombardo è quella che abbiamo utilizzato per il nostro spettacolo. Fondamentalmente non è legato molto a un rapporto tra Shakespeare e Stoppard. Ovviamente Stoppard avrà fatto le sue analisi per scrivere il suo testo. Era perché volevamo dare risalto un po' di più a questi due personaggi secondari, che in realtà tanto secondari non sono, basandoci proprio su un aspetto che è quella della non riconoscibilità dei due personaggi. Tant'è che abbiamo preso tutti quei punti le varie scene nella drammaturgia di Stoppard, in cui vi era questa non riconoscibilità tra le parti, una sorta di non identificazione vera e propria. Partendo da C'è del marcio in Danimarca, dal pezzettino di Totò bellissimo e dalla considerazione che hai fatto anche successivamente, la partenza del principe è stata proprio su quello che hai detto. Cioè, non vogliamo fare politica sicuramente, però nella nostra locandina c'è scritto c'è del marcio ovunque. Abbiamo eliminato ogni tipo di territorializzazione. Cioè, la Danimarca nel nostro spettacolo non esiste, esistono solamente questi personaggi e questo Amleto in realtà è chiamato il principe proprio perché dovrebbe essere in un certo senso colui che in qualche modo cerca di migliorare un sistema, ecco. Migliorare un sistema che invece è marcio, no? Lo potevate ambientare in una location magari diversa, non il Teatro di Verdura, ma penso per esempio l'aula di Montecitorio, ecco, in questi giorni. Senti. L'aula di Montecitorio in questi giorni? Allora, non facciamo politica. No, dai, detto. Cristiano, è una battuta. No, infatti concordo in pieno, ovviamente, però... Allora, tu hai curato l'elaborazione drammaturgica e la regia. E chi è che fa Rosencrantz e chi è che fa Guildenstern? Che fa Rosencrantz e chi è che fa Guildenstern? Sono due giovani attori palermitani straordinari che si chiamano Claudio Casisa e Giovanni Mangalaviti. Tra l'altro non, nella nostra locandina, visto che non vi è riconoscibilità tra i due, abbiamo scritto che Giovanni Mangalaviti fa Rosencrantz o Guildenstern, viceversa Claudio Casisa fa Guildenstern o Rosencrantz. Anche perché veramente non si è mai capito chi fosse l'uno e chi fosse l'altro. Non è che l'altro. Sì. In genere molti spettacoli rivestono uguali pure. Allora Matteo Contino però fa Amleto. Sì, Matteo Contino fa Amleto, Roberto Galbo, un altro elemento che ha fondato con noi l'associazione, fa Laerte. Allora, iniziamo da Matteo. Quindi tu che fai? Praticamente intrecci la tua vita con Laerte, Rosencrantz e Guildenstern in pratica. Però c'è anche in scena una Ofelia, insomma. È un'Ofelia che si chiama Stefania Vitale, è attrice anche lei palermitana straordinaria, che diciamo fa intrecciare insieme a me, a quella di Amleto, quindi è Rosencrantz e Guildenstern, tutta questa storia molto complicata, diciamo, da testo è molto complicata, però devo dire che Cristiano ha fatto un'elaborazione drammaturgica strepitosa. Ora, non è perché lo conosco da 20 anni che dico no, questo. No, assolutamente. Senti Matteo, ma la frase di Amleto, a parte essere o non essere, c'è del marcio in Danimarca, la fragilità è donna, qual è la frase di Amleto che invece magari è meno conosciuta che ti ha più colpito? Beh, se, sinceramente un po' all'inizio, nell'elaborazione di Cristiano, c'è questa frase che viene ripetuta molte volte, che dice dubita che le stelle siano fuoco, dubita che si muova il sole, dubita che la verità sia menzognera, ma non dubitare mai del mio amore. Credo che questa sia una delle frasi, a parte, più belle, e credo che sia una delle più grandi dimostrazioni d'amore che si possa dare a una donna, e siccome Amleto in quel momento la sta dedicando a Ofelia, non so, se quelli che sono all'ascolto se la vogliono dedicare alle proprie donne, sarebbe una grande cosa. Sì, però noi sappiamo che poi Amleto, no, sceglie questa vena di pazzia, e poverina Ofelia invece impazzisce d'amore per lui, quindi insomma io non lo prendere. Ofelia, diciamo, prendiamo Ofelia, la frase, diciamo, e dimentichiamoci del personaggio, perché le promesse degli uomini anche qui mi sembra che siano. No, non lo dire sta cosa. Siamo brave persone anche noi, siamo bravi animali anche noi. Allora, sentiamo un altro file di Amleto preso dal film di Kenneth Branagh, interpretato poi nella traduzione italiana da Massimo Popolizio. Cosa è un uomo? Se il suo unico modo di impiegare il tempo è rappresentato dal dormire e mangiare. Una bestia, nient'altro. Certo, chi ci ha creato con una così vasta facoltà di unire il futuro al passato non ci ha concesso questa capacità e questo dono divino della ragione perché ammuffissero dentro di noi. Ora vuoi che sia per bestiale oblio o per qualche gretto scrupolo di pensare troppo attentamente all'evento. Un pensiero che smembrato ha soltanto una parte di saggezza e sempre tre parti di vigliaccheria. Io davvero non so perché continuo a vivere dicendo questa cosa è da fare, visto che ho il motivo, la volontà, la forza e i mezzi per farla. Esempi grossi come il mondo mi esortano. La prova è questo esercito che è così massiccio e costoso, guidato da un principe delicato e sensibile, che spinto dalla sovrumana ambizione che lo pervade, fa le boccacce all'imprevisto che lo attende e si espone mortale ed insicuro ai colpi che la fortuna, la morte e il pericolo gli riservano, anche solo per un guscio d'uovo. Beh, noi cerchiamo sempre di prolungare Shakespeare, perché poi l'Amleto ha questi monologhi che non è solo il monologo del terzo atto, ma queste considerazioni del pensiero, queste peregrinazioni del pensiero di Amleto che sono sempre molto affascinanti. Allora, Roberto Galbo, dicevamo, è Laerte, quindi un po' la controparte, il fratello di Ofelia, l'amico di Amleto, però poi alla fine un po' un personaggio che decide di abbandonare il marcio. Sì, esatto, parla direttamente l'attore in questione che è qui accanto a me. Esatto, va via perché è completamente fuori da questi sistemi, vive qualcosa di proprio, è preso da altro, da un mondo fuori, però alla fine ne viene completamente coinvolto perché cade nel dolore, cade nella sofferenza, la morte del padre, la sorella. Ecco, e quindi facilmente diventa preda poi del sistema di Re Claudio. Diventa preda del sistema, sì, quindi. E completamente, sì, stravolgere dagli eventi che sono accaduti, diciamo, in Danimarca, e quindi entra finalmente, diciamo così, a far parte di questo sistema che lo porterà alla morte, ad andare contro anche i propri amici, ecco, per schierarsi da una parte. Prende una scelta e si schiera. E quindi è uno di quelli che soccombe nel grande dramma, no? Noi sappiamo che poi alla fine il regno viene preso da Forte Braccio, che è l'uomo nuovo, perché in questo Shakespeare è sempre molto preciso, l'uomo nuovo che, conoscendo il dolore, conoscendo il dolore del mondo, riesce poi a sobbarcarsi anche il potere. Allora, Cristiano Pasca, abbiamo sentito, insomma, ti possiamo considerare un giovane drammaturgo, regista palermitano, quindi, da Palermo a Londra, anzi alla Londra di Shakespeare, la drammaturgia è sempre presente. Assolutamente sì, diciamo che questa definizione un poco non me la sento tantissimo, cioè nel senso, io sono diplomato come attore e regista, questa sperimentazione l'abbiamo fatta insieme a questo meraviglioso gruppo di cui insomma mi sento orgoglioso di farne parte veramente. E l'idea iniziale G273 produzioni, G273. Senti, un'ultima domanda, che siamo in chiusura: il teatro di Verdura, un teatro particolare all'aperto, una struttura alternativa, nella biblioteca di via del Senato a Milano? Sì, la struttura è fantastica, c'è un chiostro dietro che praticamente, insomma, non abbiamo un fondale, abbiamo un chiostro meraviglioso con una statua che abbiamo deciso tra l'altro di utilizzare, proprio perché ci troviamo in un ambiente veramente particolare, l'abbiamo riadattato completamente al luogo. È stato un lavorone, però credo che insomma sia corretto, nel momento in cui hai la possibilità di stare in uno spazio così bello, di valorizzarlo al massimo. A che ora andate in scena questa sera? Andiamo in scena stasera alle 21:15 all'incirca dovrebbe essere. E via, poi, Senato 14. Via Senato 14, poi andate in tournée oppure vi fermate per il momento? Poi abbiamo un'altra replica, Parco Villa Pantelleria Festival di Palermo, diretto dal maestro Lollo Franco, e momentaneamente insomma siamo in trattativa con alcuni teatri, però ancora niente di sicuro, ecco. Allora, noi speriamo di portarvi un pochino di fortuna. Il principe, ovviamente, il principe è Amleto, questa sera al Teatro di Verdura a Milano, l'abbiamo sentito, alle 21:15 alla Via del Senato, alla Biblioteca di Via del Senato, una produzione G273, elaborazione drammatica e regia di Cristiano Pasca. Grazie! Grazie a voi. Volevo solamente ricordare, sì, che sono presenti in scena anche Simone Sussani nella parte di Polonio, Domenico Locricchio nella parte dello Spettro e l'assistente alla regia ai costumi Nicola Gabriele Lipani, progetto Luci di Fiorenza Dado. Grazie mille a tutti quanti. Grazie, grazie. Summertime. Io non chiederei di essere un gabbiano o un delfino. Mi accontenterei di essere uno scorfano, che è il pesce più brutto che ci sta, per ritornare laggiù a giocare nell'acqua della mia isola. Ma ricordo che allora, certe volte, pigliavo la barca per andare a cercare mio padre in altre isole o continenti. Mi ricordo pure che, arrivato al largo, mi pigliava una paura, un'amarezza di solitudine, e rinunciavo. Tanto era inutile la speranza di ritrovare mio padre, perché non sapevo mai dov'era. E poi, lasciando l'isola, io lo potevo perdere per sempre, perché solo là c'era una certezza. Prima o poi, lui sempre ritornava. Avrei voluto con questo libro scrivere una storia che somigli un poco in certe cose a Robinson Crusoe, cioè la storia di un ragazzo che scopre per la prima volta tutte le cose più grandi, più belle, anche quelle brutte della vita. E parte questa sera il Ponza e Ventotene in Festival, sì, dopodomani il 6 ci sarà un omaggio a Elsa Morante, che avete appena ascoltato, la grande autrice, sarà presente sull'isola di Ventotene Ambra Angiolini, che leggerà L'isola di Arturo, e abbiamo sentito un pezzo anche del film di Damiano Damiani. Una rassegna che tocca quindi due isole molto diverse tra loro, Ponza e Ventotene. Alessandro Berdini, si inizia da Ventotene, giusto? Stasera iniziamo con questo premio Passioni, dedicato appunto agli scrittori laziali che in qualche modo hanno parlato di questo grande territorio, di questa regione che poco si conosce perché è solamente romanocentrica. Ci darà questo premio, saranno premiati appunto due scrittori che hanno scritto appunto romanzi o racconti sui luoghi del Lazio. Poi alle 11 la sera ci sarà una grande parata d'animazione per tutta l'isola, prenderemo d'assalto tutta l'isola con una dei 20 animatori che sull'isola gireranno con maschere e trampoli, il classico teatro di strada. Domani un'altra giornata molto particolare, perché prima parleremo con gli anziani dell'isola, c'è un piccolo, diciamo, centro anziani dove vivono 7 anziani che hanno quasi tutti più di 90 anni, che sono la memoria storica dell'isola. Però saranno intervistati, faremo delle riprese, insomma, e pubblicheremo queste notizie di questi signori e vediamo quello che ci raccontano, perché questa è un'isola molto misteriosa. E poi tra le altre cose ricordiamo che era un'isola di confino, no? Durante il regime fascista, quindi magari questi personaggi se la ricorderanno in quel periodo. Perfettamente sì. Ci sono a Ventotene due cose straordinarie. Una è l'isola di Santo Stefano, che di fronte a Ventotene, che è il famoso carcere borbonico, dove chiaramente c'erano i confinati politici durante il fascismo, ma dove è nata anche, diciamo, la costituente dell'Europa Unita, insomma, quindi Spinelli e compagni, quindi chiaramente è un'isola, diciamo, famosa sotto questo aspetto. Dall'altra è l'isola delle sirene, in cui Ulisse attraccò ammaliato dal canto delle sirene, che non sono le sirene ma sono degli uccelli che quando non c'è la luna cantano come se fossero dei bambini che piangono, ed è una cosa straordinaria sentirli. E noi faremo questo giro con tantissime barche, da dove leggeremo il passo delle sirene di Omero. Sì, ecco, lei sa che poi questa qui ve la contendete un pochino con Capri, no? Perché anche Capri si dice che è l'isola delle sirene. Quindi, vabbè, ma la rivalità fa bene all'Italia. Comunque. Poi invece avete il 6, soprattutto quello che leggevamo era l'omaggio ad Elsa Morante, l'isola di Arturo, il brano che abbiamo scelto noi, perché ci sarà anche Ambra Angiolini. Poi... Sì, Ambra Angiolini, che è stata in questo momento, adesso va pure a Venezia col suo ultimo film, in questo momento, insomma, è, diciamo così, sull'onda della popolarità, e quindi ci dedicherà appunto una vasta lettura, insomma, più di un'ora, insomma, accompagnata da musicisti dell'isola. Qui ci sono dei bravissimi musicisti, c'è una tradizione musicale fortissima sull'isola, e quindi tutta una cosa da vedere e da sentire. E invece poi si va a Ponza. Si passa a Ponza, che è dedicata invece alle band rock, diciamo quelle in questo momento più importanti sulla scena laziale, al di là che si inizia il concerto di Carmen Consoli. E poi gli altri giorni, da martedì, mercoledì e giovedì, si alterneranno dei gruppi, tra cui Nobraino, che sono, diciamo, l'esperienza più avanzata del rock laziale, sulle banchine del porto. Quindi sarà sicuramente anche lì una interessante gemellaggio fra cultura e ambiente. Allora ricordiamo Ponza e Ventotene in festival, si parte questa sera, una rassegna che toccherà le due isole, abbiamo sentito due isole molto diverse con manifestazioni molto diverse, e che animerà le serate delle isole pontine fino al 12 agosto. Tra i tanti artisti, Ambra Angiolini il 6 a Ventotene, che legge Elsa Moranti, e Carmen Consoli a Ponza il 9 agosto alle 22:30 sulla banchina nuova. Grazie ad Alessandro Berdini. Arrivederci. Alle volte ci vuole un po' di Mozart per rinfrescarci, per darci un po' di energia, ma ci vogliono anche un po' di baruffe, sì, insomma. Avete presente quegli spettacoli un po' particolari che invadono la città, spettacoli itineranti, come era un tempo, Calli, Rive, Campielli, sì, baruffe in calle. Ovviamente stiamo parlando di Venezia, mi sembra ovvio, e l'appuntamento è a Chioggia, proprio alla scoperta degli angoli nascosti della città lagunare, questa sera fino al 5 agosto alle ore 21. Buongiorno Pierluca Donin. Buongiorno a tutti. Allora, che cosa è? L'appuntamento è all'isola di San Domenico. Che cosa succede all'isola di San Domenico? Prima di tutto noi vorremmo stare lì, tra i baruffanti, ecco. Eh certo, perché questa Chioggia, la città delle baruffe chiazzotte, che Goldoni ci ha così onorato di scrivere per noi, che spero che l'abbia scritta per noi, ma all'isola di San Domenico comincia il primo atto delle baruffe, dove c'è l'incontro tra le famiglie, che sembra tutto vada bene, poi c'è un piccolo screzio per pagare una succa barucca, una merenda alle ragazze che stanno aspettando gli uomini da 10 mesi che arrivano dal mare, e questo innesca una situazione brutta, città, diciamo, con l'arrivo dei pescatori, che arrivano sul serio perché arriva un bragozzo con i pescatori a bordo in quest'isola, quindi con una grandissima suggestione iniziale. Ecco, c'è sempre questa atmosfera, no, in Veneto, ma soprattutto anche nelle commedie di Goldoni, di molta goliardia, anche di molta ilarità. In questo Bello. Le baruffe confermano questa situazione. Ma su questo credo che le baruffe siano un capolavoro. Poi Goldoni era di un'ironia assolutamente pungente, anche perché prende in giro se stesso in questa commedia, essendo lui stato per 3 anni cogitore nella città quando faceva l'avvocato. Quindi lui scrive questa commedia e scrive anche se stesso, perché il ruolo del cogitore, che è il secondo passaggio del secondo atto, cioè a Palazzo Grassi, c'è il cogitore proprio che cerca di redimere la baruffa che è nata, e quindi con tutta una serie di interrogatori fatti alle donne che sono gustosissimi, e lui è di fatto Goldoni, e questo è il secondo atto. Ecco, un dramma in dialetto, cioè una dramma nel senso una commedia con molta azione in dialetto. Sì, credo che poi questa sia l'unica forse commedia in dialetto di Goldoni, perché le altre sono in lingua veneziana. Qui ha dovuto usare un linguaggio particolare perché l'isola parla in maniera molto particolare, non avendo avuto molti collegamenti e molta comunicazione se non portuali, e quindi il dialetto è molto trascinato, è un misto, sembra un po' portoghese, un po' sardo, però è molto comprensibile, per cui lui ovviamente la trascrive esattamente come la sentiva, per cui la modifica un attimo e la rende fruibile anche a un pubblico che magari non conosce la lingua veneta. Ecco, c'è poi una parte di pantomima. C'è tutta una parte che condisce i percorsi, perché il pubblico viene alzato da dov'è e viene riaccompagnato atto per atto, quindi le location sono pertinenti rispetto a quello che scrive Goldoni nella commedia, e tutta in questi percorsi succedono alcune scene anche contemporanee, nel senso che per esempio in questo momento a Chiosa si stanno facendo gli scavi per il Mose e c'è una signora del 700 che spiega che il canale non è così, ma è colpa del Mose. Ah, vestita magari in perfetto costume del 700, del 700 veneziano. Ho capito. Pertinente sul costume, ma impertinente rispetto a questa tragedia che è per noi il cantiere di questo Mose che sta piano piano cercando di salvare Venezia. Quindi noi ci aspettiamo un futuro Goldoni da voi che scriverà magari una commedia sul Mose di Venezia e sul canale e sulla laguna veneta, no? Noi ce l'auguriamo, cioè la piattaforma per la creatività contemporanea c'è, poi vediamo chi sa scrivere. Per chi sa scrivere, che e poi ogni tanto magari mancano i fondi, però non si sa mai. Non toccherei questo tasto. Certo. Allora, Le baruffe in calle, spettacolo quindi ideato da Pierluca Donin, chiaramente tratto da Le baruffe chiozzotte di Carlo Goldoni. L'allestimento è realizzato dal Piccolo Teatro Città di Chioggia. L'appuntamento è questa sera alle 21 all'Isola di San Domenico. Pierluca, scusami, e domani invece a che ora e dove? È sempre alle 21 all'Isola di San Domenico, stiamo replicando da 5 giorni, ma siamo praticamente alla 70ª replica, con tutto esaurito ogni sera, quindi con grande gioia. E quindi andrete avanti per tutta quanta l'estate, e speriamo agli spettatori. Poi offrite anche una degustazione tipica di prodotti dell'Adriatico. E questo è il matrimonio finale, i ristoratori della città di Chioggia hanno voluto partecipare con la loro degustazione, quindi... A tutto radicchio? No, c'è il pesce qui. Anche questa è un'area molto fortunata, dove il mare incontra la terra, nascono dei prodotti che sono assolutamente straordinari, e quindi alla fine dei tre atti delle commedie il pubblico viene portato insieme agli attori e ai musicisti, perché ci sono anche le barche storiche con i musicisti che suonano all'interno di queste barche. Poi si arriva lì, c'è un buffet di prodotti tipici, quindi c'è un bellissimo matrimonio tra enogastronomia, turismo, cultura, insomma la città va in festa per questo, e credo che chi da spettatore partecipa a questa cosa si porti via un bellissimo ricordo della nostra comunità. Vorremmo tanto stare in questa laguna veneta, sempre sempre molto divertente, molto goliardica. Grazie a Pierluca Donin, baruffe in calle fino al 5 agosto, almeno fino a domani. Vediamo poi se si replica. L'appuntamento alle 21 all'Isola di San Domenico a Chioggia. Grazie a voi. Io ringrazio